Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono sempre a Napoli, sono davanti al Pio Monte della Misericordia, due passi dal Duomo della città di Napoli. In questo luogo si conserva uno dei più strepitosi capolavori di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Che cos'è un Pio Monte? Un Pio Monte era un luogo dove alcuni nobili della città di Napoli si riunivano e queste riunioni erano tutte finalizzate a creare naturalmente dei fondi per aiutare le persone del popolo nelle opere di misericordia, naturalmente nello sfamare, nel curare, nel sostenere gli ammalati, eccetera. E nella cappella dove si riunivano questi nobili uomini si volle commissionare a Caravaggio questa grande tela. Caravaggio era appena giunto a Napoli, tra l'altro era fuggiasco da Roma perché aveva ucciso un uomo, e si trova ad affrontare un tema non tanto semplice, perché deve in una sola tela raccontare le 7 opere di misericordia corporale, e quindi riesce a fare una composizione in cui tutte quante le opere vengono riassunte. Intanto siamo nei vicoli di Napoli, è notte e si intravede in un punto della tela una persona che porta un morto, si vedono i piedi del morto, ecco il Seppellire i Morti, una delle prime opere di misericordia corporale. Poi di fianco c'è una strana scena dove c'è un uomo in carcere e una donna davanti alla grata gli porge il seno. Allora in questa piccola scena, che tra l'altro è tratta dalla mitologia, perché è il mito di Cimone e della figlia Pero, ecco, il Caravaggio riassume 2 opere di misericordia, perché si visita il carcerato, ma dandogli il seno gli si dà da mangiare a un affamato. Poi al centro della tela abbiamo San Martino, la figura di San Martino che fa 2 cose: da un lato taglia il mantello, quindi veste un ignudo, ma anche assiste un'altra persona, uno storpio che lo sta pregando, cioè visita un ammalato, ed ecco che risolve così le altre 2 opere di misericordia. Poi noi notiamo in un altro punto un pellegrino, anzi San Giacomo di Compostela, il pellegrino per eccellenza alla Conchiglia, che viene invitato da una persona a venire evidentemente in una casa. Ecco, di nuovo un'opera di misericordia, cioè l'ospitare i pellegrini. Ecco. Sul fondo ecco l'ultima opera di misericordia, dar da bere agli assetati, con Sansone, anche qui una figura mitologica, che beve dalla roccia che è scaturita miracolosamente, come racconta la Bibbia. Ecco, Caravaggio riesce così, con una capacità di sintesi estrema, a raccontare tutte 7 le opere di misericordia. In alto però si affaccia, pesante come una vera donna, con un vero bambino in braccio, la Vergine Maria, che cala dal cielo ed è talmente pesante che 2 angeli, molto nerboruti, la sollevano. È la Mater Misericordia che aiuta il popolo e i bisognosi.